nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, programma che parla di lavoro, soprattutto visto da un'angolazione femminile e che ogni domenica ricorda soprattutto a me stessa, oltre che a voi, che il multitasking è una fregatura e che vivere freneticamente è una autoimposizione che ci siamo autoimposte per l'appunto senza grande efficacia, secondo me. Meno multitasking e più ritmi pensati, almeno la domenica. E, a proposito di ritmi non rallentati, ma appunto lasciati scorrere insieme al pensiero, mentre da un lato tutto il mondo va freneticamente, velocissimamente, e nel mondo del lavoro già ci si interroga su quanti posti spariranno sostituiti dalla robotica, ebbene dall'altro proprio i tempi lunghi, il lavoro pensato, la riflessione appartiene a quella che è la tradizione italiana. Sto parlando dell'artigianato e del fatto che studi recenti sulle tendenze dell'occupazione nei paesi ad alto reddito confermano che l'artigianato e i lavori basati sul saper fare con le mani saranno tra le professioni più ricercate del prossimo decennio. Ecco, vi dicevo che nel prossimo decennio l'artigianato andrà forte. Non lo dico solo io, lo dice anche la Commissione europea, che in uno studio intitolato Business Innovation Observatory, lo studio dedicato ai temi della produzione e del fare economia, mette in evidenza che il trend occupazionale dell'artigianato e delle professioni basate sul saper fare con le mani è in crescita. Quindi l'artigianato, che è stato spesso minacciato di estinzione, o almeno abbiamo tante volte pensato che fosse così nei decenni scorsi, sembra essere invece in pieno rilancio. Nel report della Commissione europea viene citato anche il successo globale del sito Etsy, il mercato virtuale nato a New York nel 2005 interamente dedicato ai manufatti artigianali. Etsy conta oltre 1 milione di artigiani che vendono le loro creazioni senza intermediari. E pensate, l'88% di quello che vende prodotti artigianali su Etsy sono donne. E io sono proprio curiosa di sapere cosa pensa di tutto questo l'agente provocatore questa settimana, quindi benvenuto, buona domenica, Brunello Cucinelli. Grazie a voi. Brunello, sei, se non sbaglio, appena rientrato dagli Stati Uniti, dove hai preso parte a una cosa molto bella. Sì, devo dire che ogni volta che torno dagli Stati Uniti, non lo so perché, ma torno sempre affascinato per quello che dicono sul nostro paese, quindi molto positivo. Ma la cosa importante è che questi giovani ragazzi, proprietari di Instagram, i vicepresidente di Facebook, hanno fatto una cenetta per me. Erano una ventina di ragazzi, sono venuti in San Francisco e, diciamo, parlando mi hanno chiesto una cosa molto carina: dicci che cosa faresti tu al nostro posto. Io ho detto: guardate, io credo che voi in qualche maniera rappresentate il Leonardo dei tempi moderni, no? Quindi mi piacerebbe se a queste vostre grandissime innovazioni deste molta umanità. E devo dire, è stata presa con grandissima attenzione. Uno di costoro mi ha mandato il suo top manager ieri in Perugia, in Solomeo, e mi ha detto: sono venuto per parlare con te di come possiamo umanizzare il nostro lavoro. Quindi questo mi fa ben pensare per il mondo a venire. È una cosa parecchio interessante, perché una persona come Brunello Cucinelli, che crede nella dimensione artigianale del lavoro. Vorrei dirvi questo molto interessante. Io sono esordito dicendo: io ho grande stima del vostro lavoro, sappiate che io vorrei cercare di essere un artigiano del web, un artigiano umanista del web. È questo come mi sono posto io nei loro confronti, un artigiano del web che ha coraggio e speranza. Citavo prima del tuo arrivo che esiste appunto negli Stati Uniti un sito che si chiama Etsy, al quale fanno riferimento 1 milione di artigiani in tutto il mondo che vendono le loro creazioni senza intermediari, e l'88% di quelli che vendono su Etsy sono donne. Mi chiedo quanto l'artigianato sia davvero, come dire, conosciuto dalle donne in cerca di occupazione. Secondo te? Innanzitutto ha un grandissimo valore, come diceva Lorenzo il Magnifico, considerava gli artigiani fratelli dei grandi artisti. Io credo che in questo momento il mondo sta cercando da noi manufatti speciali in tutti i settori, molto esclusivi di grande manualità, e cercando questo noi abbiamo grandi possibilità. Noi dobbiamo recuperare certi valori partendo dalla dignità morale prima, ma questo mi pare che ormai sono un paio d'anni che voi in genere giornalisti tutti insieme abbiamo dato un buon valore. Ora dobbiamo dare dignità economica, perché immaginare che un ragazzo faccia un giornalista, un artigiano a un magari 1.000 euro al mese diventa un pochino più difficile. Quindi torniamo a investire sui grandi mestieri, sapendo che i grandi mestieri artigianali sono in qualche maniera anche remunerabili, perché se un sarto incomincia magari a guadagnare 2.000 euro al mese invece che semplicemente 1.000 euro, tutto cambia, e nel contempo il mondo intero aspetta queste creazioni da noi. Quindi abbiamo una possibilità, che è anche un po' lo scopo delle scuole dei mestieri che abbiamo cercato di realizzare in Solomeo, dove all'inizio onestamente pensavo che vi fossero pochi iscritti, e invece ogni corso abbiamo talmente tante richieste che mi piacerebbe replicare queste scuole. Sì. Certo, io vorrei concentrare le ultime domande di questa nostra conversazione, sì, sul ruolo che l'artigianato può avere per le donne che vogliano dedicarsi a una loro passione, perché come dicevo prima l'88% di chi vende prodotti artigianali sul sito Etsy che ho prima citato sono donne, e siccome la disoccupazione femminile in Italia è ancora altissima e siccome le donne sono creative, credo che possa essere uno sbocco professionale di grande interesse per le giovani donne. Allora, io chiaramente nella mia azienda ho il 70% di donne, quindi ho preferenze, ma è anche un tipo di lavoro, no? Ma vede, l'artigianato, la donna in questo caso, ha anche qualche frazione di tempo libero in più per dedicare alla famiglia, e questo fa la differenza. È nella tua piccola bottega di qualità, nel piccolissimo laboratorio di qualità, tu riesci ad essere leggermente diversa. Quindi noi dobbiamo tornare ad investire in certi mestieri. Quando tu lavori in una grande azienda, a volte hai un numero X di ore lavorative che sono quasi assurde, cioè alla fine puoi stare fuori di casa 13-14 ore. Ecco, dobbiamo ritrovare un po' in qualche maniera un equilibrio, sapendo che il mondo è affascinato da certi manufatti e le mani delle nostre amate donne sono sempre forse leggermente più sapienti. Grazie ancora allora, buona domenica. A voi. Ciao, grazie. Grazie, arrivederci. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, ed è, come sapete, questo il momento della nostra Sunday Girl. E benvenuta la nostra Sunday Girl di questa domenica, Gabriella Scarpa, presidente di LVMH Italia e di Acqua di Parma. Pensate, è entrata nel gruppo che è leader mondiale del settore del lusso nel 1990 e ha fatto una carriera veramente di grande successo, una delle poche italiane a poter vantare una carriera di questo livello in un gruppo mondiale del lusso. Allora, buona domenica Gabriella Scarpa. E come presidente di Acqua di Parma non posso non ricordare i vostri 100 anni che sono stati festeggiati proprio a Parma con una serie di eventi conclusi da uno spettacolo di Roberto Bolle al Teatro Regio. È stato un momento di grande emozione, credo. Sì. Beh, grazie, innanzitutto vi ringrazio per questa intervista e per questi complimenti che mi hai fatto. Sì, certamente è stato un momento di grandissima emozione perché abbiamo festeggiato i 100 anni di Acqua di Parma, il 25 e 26 giugno proprio a Parma. Il brand è un brand che ha un secolo di storia, che vede il marchio che oggi più che mai è ambasciatore nel mondo del Made in Italy attraverso dei valori che appartengono alle sue origini e al suo DNA. Sono 100 anni di savoir-faire, di cultura della qualità a livelli altissimi. L'artigianalità è un altro aspetto importantissimo del Made in Italy. È proprio di questo che vorrei un po' parlare, perché il vostro gruppo, che è un gruppo francese ma un gruppo mondiale, punta molto sui laboratori artigiani di eccellenza in Italia. Noi qui a Nessuno è Perfetta parliamo molto di lavoro da un'angolazione specifica, che è quello del mondo del lavoro femminile. Le donne, le giovani donne in Italia, Gabriella Scarpa, capiscono quanta possibilità di lavoro c'è nell'artigianato? Ma assolutamente spero di sì, perché ovviamente il nostro paese è un paese numero uno al mondo per l'artigianato, perché il Made in Italy, come sapete, è riconosciuto nel mondo come la grande qualità, specialmente nel mercato del lusso, perché tutto è handmade. E per noi il lusso rappresenta l'arte, peraltro, perché dietro al lusso, dietro ogni oggetto di lusso c'è una creazione, quindi un creativo, ma c'è anche un artigiano. L'artigiano è un artista a sua volta, perché è qualcuno che sa veramente eseguire delle opere d'arte, quindi questo è importantissimo. Da sempre nella storia dell'Italia questo è stato un mestiere assolutamente importante e riconosciuto appunto mondialmente, nonché localmente. Oggi si è un po' frenato ovviamente negli ultimi anni con la crisi, con tutte le problematiche, però ci sono molti giovani che stanno ripartendo, non solo con le start-up di digital e di, chiaramente, di attività moderne, ma anche con l'artigianato, e brand come il nostro gruppo, stanno sostenendo peraltro le scuole di artigianato. In quali settori, Gabriella Scarpa, per esempio? Nei settori delle shoes, per esempio, nel Veneto, quindi noi sosteniamo il Politecnico di Padova, perché noi abbiamo le fabbriche di scarpe come il Vemash proprio nel Brenta, quindi abbiamo sia Rossi Moda che Dior Shoes, abbiamo Louis Vuitton Soulier, questo anche nella zona di Firenze invece con tutta la parte della pelletteria, e quindi sosteniamo veramente anche la scuola per la moda. Quindi sì, anche perché c'è una grande possibilità e potenzialità di lavoro, se solo per esempio i giovani ci pensassero. L'eleganza, la raffinatezza, l'arte sono effettivamente dei business italiani di grandissima importanza, che stanno ripartendo sempre di più. Sapete che nel mercato del lusso l'Italia come produzione e anche i brand italiani stanno veramente dando degli ottimi risultati all'estero. Acqua di Parma, per esempio, è il brand che rappresenta il top luxury nelle fragranze italiane, ma è un brand di lifestyle, quindi ovviamente la maggiore conoscibilità della marca è quella delle fragranze, ma in realtà il brand ha un'attitudine di lifestyle, perché deriva proprio da questo tipo di cultura. Quindi la famiglia Magnani, che ha creato questo prodotto Colonia nel 1916, è una famiglia aristocratica di Parma, il cui prozio del fondatore era Girolamo Magnani, che era lo scenografo di Verdi, quindi un grandissimo artista, quindi anche un disegnatore importante, e che quindi lavorava come artigiano anche, voglio dire, ma un pittore, e quindi aveva veramente una grande capacità artistica, quindi, e creativa. Un legame forte con la città. Senta, Gabriella Scarpa, ma io credo che chi ci ascolta si chieda, bene, questa signora che stiamo ascoltando è la presidente di Acqua di Parma, un gruppo internazionale le riconosce questa autorevolezza, ma chissà quanto le sarà costato arrivare fin dove è arrivata. Allora, diamo un po' anche un messaggio di relax alle donne e alle giovani donne, soprattutto, che ci ascoltano. A che cosa ha rinunciato Gabriella Scarpa per fare la carriera che ha fatto? No, io personalmente non ho rinunciato a nulla, anzi ho avuto questa fortuna di poter eseguire un lavoro che rappresenta esattamente il mio stile caratteriale e il mio stile di vita, quindi non ho mai fatto una differenza tra il lavoro e la vita privata, il lavoro faceva parte della mia personalità, quindi assolutamente, quindi ho avuto la fortuna di lavorare per aziende in gran parte straniere che mi hanno dato la possibilità di sviluppare queste mie capacità e di avere anche un'attitudine imprenditoriale, quindi questo era molto importante perché la mia gestione è sempre stata una gestione di brand, di attività, veramente a livello di imprenditorialità, quindi comunque di visione. Lavorare con un gruppo internazionale non italiano, diciamo la verità, le ha consentito una carriera che forse in Italia con degli italiani sarebbe stato più complicato sviluppare? Penso di sì, perché gli stranieri hanno sempre guardato di più lo sviluppo futuro con una visione quinquennale, decennale, eccetera, non solo quotidiana, e dove però una donna deve impegnarsi fondamentalmente ad essere appunto imprenditore, manager e sviluppare il business, assolutamente. Quindi sviluppare il business significa anche per qualcuno sacrificarsi, per me invece era assolutamente normale che fosse così. Sacrificarsi significa, per esempio, non ho mai avuto tempo di seguire i miei figli, sono sempre stati cresciuti da babysitter. E uno dice: Dio mio, chissà quanti sensi di colpa. Lei li aveva, i sensi di colpa? Ma qualche volta i sensi di colpa ci sono, però cercavo di compensarli comprandogli i regali ogni volta che viaggiavo, comprandogli i regali, portandoglieli a casa, e poi vabbè, facendo un po' di sport insieme quando avevo del tempo libero, perché all'epoca, poi soprattutto tanti anni fa, si lavorava anche di sabato e di domenica, anche adesso si lavora ancora tanto nei weekend, si fanno poche vacanze eccetera, perché quando sei appassionato per il tuo lavoro e quando sei un responsabile, quando hai un'attitudine imprenditoriale, non hai il tempo libero come opzione. Però ogni tanto la domenica lei faceva una cosa da mamma tradizionale, cioè... Assolutamente sì, mamma tradizionale, più che altro da amica tradizionale, nel senso che appunto facevamo sport insieme, poi a me è sempre piaciuto cucinare, la cucina italiana, io sono molto made in Italy anche in questo, e quindi invitavo i loro amici, bambini o ragazzi, i nostri amici, anche questi ragazzi o più giovani eccetera, e facevamo delle belle dei pranzi, delle belle cene insieme, con anche delle feste, del divertimento, un po' di musica eccetera, a loro questo è sempre piaciuto tanto, quindi è la qualità del rapporto, ecco, infatti mi hanno sempre detto i miei figli: ah, ma mamma, quando io mi lamentavo del fatto di non essere stata una mamma ideale, dicevano: no, ma mamma, non scherzare, guarda che sei sempre stata la mamma assolutamente positiva, ci hai insegnato che il lavoro era una passione, ci hai insegnato che stare insieme ai figli era una cosa positiva e fare tutte le cose insieme in maniera divertente, simpatica eccetera, ci hai insegnato lo sport. Quindi ecco, questo è stata una soddisfazione sinceramente. Ma sì, io ho un ottimo rapporto con i miei figli, che a loro volta lavorano molto anche loro, sono molto impegnati, lavorano molto, sono appassionati al lavoro. Diciamo che il lavoro è stile di vita. Come dicono gli americani, la mela non cade lontano dall'albero. Hanno visto che tutto sommato una madre che ha dato molto al lavoro, però questo non ha minimamente tolto la profondità del vostro legame. Questo lo dico alle tante giovani donne che dicono: vogliamo lavorare, ci piace lavorare molto, ma questo poi come si concilierà con l'idea di avere una famiglia? A queste donne, Gabriella Scarpa, a queste giovani donne, lei che consiglio darebbe? Ma devo dirle che decidere di essere madre e moglie è comunque un lavoro anche quello, quindi è una scelta di vita, quindi io lo rispetto questo, perché è comunque un impegno assolutamente importante gestire una famiglia, gestire dei bambini, e chiaramente i bambini crescere con la mamma hanno comunque un senso di affetto e di protezione diverso, però è chiaro che dipende sempre dal carattere della persona, quindi una persona come me non avrebbe potuto farla questa vita, ha fatto una scelta di vita diversa che grazie al cielo è corrisposta anche a quello che i miei ragazzi poi alla fine hanno accettato, non solo, ma anche magari quando erano piccoli avranno anche sofferto un po', però crescendo invece l'hanno ritenuto positivo, anzi sono diventati assolutamente autonomi immediatamente, tant'è che oggi vivono all'estero, ma essendo assolutamente autonomi e appassionati al lavoro anche loro, per loro la parola lavoro viene sempre prima di tutto. Senta, mi viene da chiedere se nella sua vita c'è mai stato un momento in cui, dovendo negoziare, per esempio, un aumento di stipendio, si è chiesta, oddio, come faccio? Perché in molte, per esempio, noi ci chiediamo, il titolo della trasmissione è Nessuna è perfetta, no? E molte di noi si chiedono come superare le difficoltà, le ansie, le insicurezze della prima volta in cui si chiede un aumento di stipendio. Lei come ha fatto? Ma allora, le dirò una cosa seria. Io non ho mai chiesto un aumento di stipendio nella mia vita. Io ho cambiato diverse aziende, ma pensi che i miei capi sono sempre diventati poi amici, sono sempre stati i miei padri, zii, eccetera, protettori, eccetera. Io ho sempre lavorato tanto, al punto che loro mi hanno sempre riconosciuto da soli gli aumenti di stipendio, non ho mai dovuto chiederli nella mia vita. E io la carriera l'ho fatta grazie a loro. Io addirittura avevo dei capi nel passato che, quando avevo deciso di cambiare settore, hanno voluto incontrare addirittura i miei nuovi capi, cercando che questi gli garantissero di trattarmi bene. Quindi erano stranieri e volevano che assolutamente mi trattassero bene. E quindi, ecco, sono sempre rimasta in contatto sempre con i miei capi. Alcuni purtroppo sono anche morti, però veramente non ho mai avuto questo problema del salario, della discussione del salario, mai avuto, assolutamente. Ma questo perché effettivamente ho sempre portato anche dei risultati positivi, quindi questo è anche importante, voler portare dei risultati, porsi degli obiettivi, alzare le barre e, voglio dire, voler lavorare sempre di più per lo sviluppo. In finale, Gabriella Scarpa, se lei dovesse fare una previsione su quello che vede della Made in Italy in questo momento e sui mercati internazionali, come si sta muovendo il settore nel quale lei ormai lavora da così tanto tempo. Ci sono aree che stanno un po' rallentando, la Cina, l'Estremo Oriente, e ci sono aree che invece possono compensare questo rallentamento del sud-est asiatico? Ma certamente, come dicevo, il Made in Italy resterà sempre uno dei nostri punti di sviluppo importante. In questo momento, per esempio, si parla spesso del food italiano, che in America sta crescendo moltissimo, sta crescendo nel mondo in generale, eccetera. Ma in generale è chiaro che è un momento un po' critico per certi paesi, come la Cina, l'Asia, però per esempio il Giappone sta crescendo, voglio dire. Quindi l'America, anche il mercato sta andando bene, hanno meno turisti, ma il mercato dal punto di vista economico sta andando bene. Anche in Europa stiamo perdendo un po' di turisti, però grazie al cielo abbiamo tanti locals, quindi sia francesi che tedeschi che inglesi che italiani, anche gli italiani stanno ritornando a spendere un po' nel lusso e più nel turismo, quindi insomma c'è comunque una piccola ripartenza in atto, e comunque, ripeto, il prodotto italiano viene sempre considerato un punto di riferimento. Infatti Milano non a caso è la quarta via dello shopping al mondo, quindi comunque è una destination per lo shopping del lusso. Io ringrazio Gabriella Scarpa, che è stata con noi. Grazie, tanti auguri allora per grazie i 100 lei, Maria, anni grazie. Di Acqua grazie. Di Parma, e buona domenica. Grazie mille, grazie, arrivederci. Arrivederci. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Ogni domenica alle 11 nella stazione di Radio 24. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24, Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar non, in realtà, non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimento necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E come è regola a questo punto della trasmissione, è il momento della lettera della settimana, una lettera che questa settimana un po' ci rimprovera. Vi ricordo che potete farlo pure voi, rimproverarci oppure invece dirci che vi piace quello che stiamo facendo qui a Nessuna è Perfetta, scrivendo per l'appunto a nessunaeperfetta@radio24.it. La lettera è quella di Camilla. Parlate sempre di carriera, di lavoro, di aziende, di grande manager, voi a Nessuna è Perfetta, ma a me l'argomento interessa poco. Ho 26 anni e un'idea precisa in testa. Voglio fare l'artigiana, non voglio mettermi il tailleur e i tacchi a spillo e non mi importa se i miei genitori non sono d'accordo e pensano che alla fine non avrò mai uno stipendio garantito. Credo nelle mie capacità, credo di saper lavorare la pelle come nessun'altra e credo nel fatto che il valore di un marchio, di qualcosa prodotto in Italia, avrà sempre più importanza. Scusate lo sfogo e ditemi se sbaglio. Camilla. Cara Camilla, è vero che parliamo spesso di donne che lavorano in azienda, però non è vero che abbiamo parlato sempre solo di manager. Qui ci scrive anche la studentessa o chi sta per andare in pensione e non ha prospettive di grandissima carriera. Comunque hai ragione, non è l'amore per il lavoro non coincide sempre e soltanto con l'amore per una scrivania, può essere appunto quello che pensi tu, il lavorare il cuoio, la pelle, ma ci sono con noi oggi due esperti che molto meglio di me potranno darti dei consigli e ve li presento subito. Sono Raffaello Napoleone, amministratore delegato di PT Immagine, grazie per essere qui con noi. Grazie per avermi invitato. E una ceramista che per l'appunto, come te Camilla, ama il suo lavoro ma ha scelto un lavoro che è manuale, che si fa con le mani. Elvira Keller, buona domenica. Buongiorno a tutti. Napoletana di nascita, faentina di adozione, ha 37 anni, due figli e a 16 anni ha cominciato seguendo la passione, creare ceramiche e oggi lo fa da artista. E prima di raccontare la storia di Elvira e anche le difficoltà che magari ha conosciuto dall'inizio, io vorrei chiedere a Raffaello Napoleone: ma se oggi una come Camilla, 26 o meglio anche a 20 anni, decide di voler fare l'artigiano, che è una delle attività secondo la Commissione europea che avrà maggiori prospettive di lavoro in futuro, dove può tra virgolette imparare il mestiere? Sicuramente in base all'esperienza che abbiamo soprattutto qui a Firenze in Toscana e sentivo parlare di pelle come passione specifica di Camilla, ci sono degli istituti professionali che possono dare delle prime indicazioni, però la vera grande scuola è proprio quella accanto a degli artigiani affermati. A Firenze c'è una grande tradizione, come voi sapete, di ciabattini, di calzolai, dove giovani dell'età esattamente di Camilla, come ragazzi di bottega o ragazze di bottega che sono tra l'altro assai ben accette, cominciano ad apprendere i rudimenti di questo lavoro. La grande formazione si fa nell'artigianato seguendo le persone che hanno esperienza. Ma questi ragazzi vengono pagati dall'artigiano o sono lì? Perché allora, poi mantenersi a Firenze non è propriamente poco costoso. Allora, sicuramente in una fase iniziale è difficile che degli altri artigiani che stanno trasmettendo il sapere possano pagare, però il più delle volte credo dei rimborsi spesi vengano dati. Però la cosa importante, e questo è molto significativo, è sapere che all'inizio, come d'altronde succede con le persone che magari invece di fare l'artigianato hanno deciso di intraprendere altre strade, ci sono dei periodi di apprendistato, e la legge in questo aiuta, che possono essere e devono essere seguiti. Elvira Keller, quando ha deciso di lavorare la ceramica e quindi di fare qualcosa che aveva a che fare con la manualità, i suoi genitori che cosa le hanno detto? L'hanno sostenuta o si sono preoccupati? Allora, io ho incontrato questa passione molto presto, quindi sono stata fortunata e ho deciso molto presto di intraprendere questa strada, e sono stata fortunata nell'essere appoggiata dai miei con non poche preoccupazioni, perché ovviamente non è una strada facile e non è una strada particolarmente remunerativa, almeno all'inizio. Quanti anni ci ha messo prima di riuscire ad avere, come dire, una discreta autonomia e indipendenza economica? Io adesso ho 37 anni, ho da 10 anni un mio laboratorio e diciamo che è da poco che riesco a essere assolutamente indipendente. Prima facevo anche altri lavori oltre ad avere il mio lavoro, la mia partita IVA. Quindi bisogna fare un po' di sacrifici all'inizio. Bisogna fare un po' di sacrifici, Keller, ma allora non è vero quello che dice la Commissione europea, che il trend occupazionale dell'artigianato e delle professioni basate sulla manualità è in crescita e darà prospettive di lavoro? Perché se sentiamo Elvira Keller dice sì, è la mia passione, no, sì, la ceramica, però ci ho messo 10 anni prima di essere autonoma economicamente, ho dovuto fare anche altri lavori. Io ho dovuto fare anche altri lavori, per fortuna nello stesso ambito. Ecco, quindi lavorare, sì, per altri. Oggi io lavoro solo per me stessa, ho una bottega mia, un laboratorio mio. Prima lavoravo anche per altri, sempre nell'ambito ceramico. Ho capito. Però, ecco, come sono le prospettive economiche per chi decida di fare l'artigiano, Napoleone? Le prospettive, sicuramente, parlando dell'artigianato che conosco bene qui, e quindi penso sia alle calzature ma anche alle borse, in una città che ha una grande attrattiva turistica e che ha un'immagine forte di produzione anche e soprattutto artigianale, qui in Toscana, le prospettive, se uno fa un buon prodotto, riesce a rendere in qualche modo l'artigianato contemporaneo e quindi riesce a creare, a mettere del suo, a inventare, mette il saper fare con le mani insomma, al servizio delle proprie idee, sono sicuramente interessanti, perché c'è un'aspettativa per chi viene in questo distretto, in questa città, per trovare delle cose ben fatte a mano. Allora è chiaro, c'è lavoro per tutti? Allora, se uno dà le buone idee, questo lo so e lo vedo proprio per questa sezione che abbiamo aperto a Pittimagine Uomo, che si chiama Make, dei New Makers, che si rivolge proprio ai giovani italiani e internazionali, attraverso delle fiere, se uno ha dei buoni prodotti, delle buone idee, riesce a rinnovarsi almeno di stagione in stagione, ha la possibilità di entrare sul mercato, perché il grande problema che c'è in questa fase iniziale è anche quello della distribuzione. Uno può fare dei buoni prodotti, avere delle buone idee, ma spesso e volentieri, proprio perché la pizza struttura è molto piccola, ha delle difficoltà nel distribuire questo prodotto, e le fiere, da questo punto di vista, le buone fiere sono un grande veicolo di promozione. Quindi è un mix di capacità che devono essere messe insieme, che sono quelle creative, quelle manuali, ma anche quelle della distribuzione. E anche quelle del business. Elvira Keller, un artigiano oggi deve sapere anche, come dire, leggere un bilancio, saper far di conto, perché sennò la crisi economica è immediata. Come ha fatto lei? Si è messa a studiare da commercialista? Inizialmente pensavo che il 90% del lavoro fosse in bottega, invece non è assolutamente così. E come dicevamo, la metà del lavoro è in bottega e l'altra metà è andando alle fiere, informandosi, lavorando molto su internet, quindi anche lavorando e vendendo online. E quindi partecipare a corsi, concorsi, è molto importante tenersi sempre molto informati e essere su piazza. Su piazza intendo nel mondo, non solo nella tua città o in Italia. La piazza è il mondo oggi. Io sono fortunata perché abito in una città molto attenta alla ceramica, però mi rendo conto che qui a Faenza siamo tanti e quindi bisogna muoversi, bisogna avere le antenne insomma molto ricettive e andare fuori. Io vado spesso a fare cose fuori, sono andata in Francia, sono andata in altri posti, in Spagna, per appunto promuovere il mio prodotto e venderlo e farlo conoscere, certo, su una piazza diversa da quella italiana. Non vengo a casa tua, certo, a cercarti, sei certo tu che devi muoverti. Raffaello Napoleone, in conclusione mi piacerebbe tornare al tema delle scuole. C'è una scuola di artigianato a Firenze, chi l'ha promossa, chi l'ha organizzata, quanto dura e quanto costa? Allora, sulle scuole di artigianato specifiche ci sono dei corsi sulla pelletteria a Scandicci, in particolare sono degli istituti professionali, poi ci sono delle scuole un po' più sofisticate che hanno dei corsi di ingresso maggiore, penso al Polimoda, dove hanno dei corsi specifici oltre che per l'abbigliamento anche per gli accessori. Il Polimoda è un istituto privato? È un istituto di fatto pubblico e privato, è stato fondato dal Comune di Firenze e la parte privata sono le associazioni di categoria. Quindi ci sono delle opportunità del genere, però io insisto, è molto importante se uno vuole subito iniziare a lavorare e quindi non passare altri anni nella formazione, trovare un artigiano che ti prende in bottega e ti aiuta a lavorare e ti insegna veramente come si fanno le cose. E non va dimenticato, come è stato rammentato poco fa, come è importante poter essere sui mercati. E oggi, contrariamente a quello che succedeva in passato, la possibilità di usare internet e quindi l'e-commerce e soprattutto delle piattaforme che raccolgono il meglio dell'artigianato italiano e quindi danno le opportunità di visibilità e di vendita, sia una delle grandi opportunità che si prospetta e che va seguita. Beh, poi ricordiamo che uno degli attori più famosi e fascinosi degli ultimi anni, Daniel Day-Lewis, con la passione dell'artigianato, perché a lui piace realizzare prodotti, calzature, lavorare il cuoio, un po' come la nostra Camilla che ci ha scritto, scelse proprio una bottega artigiana di Firenze per imparare il mestiere, mi sbaglio? Esatto, andò da questo, tra l'altro un nostro espositore, un nostro anche amico, purtroppo mancato di recente, e passò un anno intero a fare l'artigiano accanto a Stefano Bemer. Allora, questi sono veramente gli esempi per acquisire e imparare, tra l'altro questo riguarda in questo caso la pellame, ma la stessa cosa riguarda tutte le altre discipline dove occorre mettere un saper fare manuale, dove inevitabilmente oltre all'insegnamento alla scuola che è importante per dare i fondamentali, poi ci vuole il lavoro in bottega dalla mattina alla sera seguendo chi ha molto mestiere. Allora grazie davvero alla nostra amica ceramista Elvira Keller da Faenza, grazie all'amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaello Napoleone, buona domenica a voi. Grazie a voi, dite a Camilla che se vuole buona ci contatti. Domenica. Lo faremo, grazie. Grazie. Arrivederci. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Il 19 giugno, dalle 23, non perdere lo speciale ballottaggi delle elezioni amministrative 2016, con le voci dei protagonisti e gli approfondimenti dei nostri inviati, per seguire in tempo reale l'andamento degli scrutini. E lunedì 20 giugno, appuntamento nei giornali radio per l'aggiornamento in diretta dei risultati. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Avete sentito i consigli che i due esperti, l'amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaello Napoleone e la nostra amica ceramista Elvira Keller hanno dato a Camilla. Ma è il momento di sentire i consigli che il nostro coach vuole dare a Camilla. Allora, buona domenica Roberto D'Incau, coach, headhunter, fondatore di Lang & Partners. Buongiorno a tutti, ormai è un appuntamento fisso quasi. Quasi fisso e ci piace che tu possa essere tra noi spesso la domenica. Allora, mi sembra che le cose in sintesi che abbiamo sentito sia dall'amministratore delegato di Pitti Immagine che dalla nostra amica ceramista sono due. Uno, non è facile perché per esempio Elvira Keller ci ha messo diciamo 10 anni a raggiungere una vera e propria autonomia economica lavorando la ceramica e quindi seguendo la sua passione. E però d'altra parte, come dicono anche le previsioni di tendenza dell'Unione Europea e anche molti studi americani, l'artigianato è una risorsa sicura per il mondo, per l'occupazione dei prossimi anni. Quindi che consiglio daresti a Camilla? Allora, sicuramente l'artigianato è vero, è un asse portante nel nostro paese e anzi trovo che proprio per il futuro del Made in Italy, come Raffaello dice anche più volte, come è chiaro, è importante che questo tessuto artigianale si mantenga. Io consiglio che le do è, se ha questa passione e questo entusiasmo, davvero ben venga, perché tanto, voglio dire, nulla è facile, non è facile ora, ma forse non lo era neanche, un po' meno forse, un po' di anni fa, però diciamo che l'entusiasmo è davvero una condizione essenziale. Quindi l'entusiasmo è il vero drive della motivazione, la motivazione intrinseca, che io differenzio rispetto a quella estrinseca. L'estrinseca è il denaro, lo status, che mi sembra che a Camille non interessi molto. No, anzi, dice, non voglio fare la carriera in doppio petto e tacchi a spillo, voglio fare qualcosa che mi piace davvero. Tra l'altro questa cosa devo dire che è molto in linea con i trend attuali, cioè i millennials, i giovani hanno delle priorità di carriera che sono diverse rispetto alla nostra, sono veramente, rispetto alla generazione precedente, sicuramente dei padri, hanno degli altri valori. Ecco, io quello che devo dire a Camilla è: tieni duro, perché se davvero questa è la tua passione, dati naturalmente dei tempi, ecco, per cui l'ultima cosa che vogliamo, qui pensiamo anche ai poveri genitori di Camilla, è che questa cosa va avanti fino a 40 anni, però davvero se c'è questo entusiasmo. Io ho visto, ti posso dire, come coach, ho accompagnato dei giovani che sulla carta erano, diciamo, progetti che non funzionavano, progetti difficili, e invece hanno tenuto duro, hanno ascoltato. Questo è molto importante, perché anche in un'attività come questa bisogna ascoltare, bisogna crearsi delle competenze relazionali, bisogna sapersi vendere, bisogna muoversi, però se uno sa ascoltare, si fa consigliare e funziona, insomma, le cose funzionano. Raffaello, quindi... Napoleone suggeriva di andare a bottega, come si faceva un tempo. Certo. Questo significa però anche non essere pagati per un certo periodo, e quindi sono i genitori che devono sempre finanziare questi figli. Beh, ma questo, sai, siamo genitori entrambi, Maria, sì. E questo, c'è un periodo iniziale in cui, come dire, è difficile essere pagati, però si porta a casa un know-how, quindi il consiglio, se appena uno può, è di cercare di investire sul proprio futuro. E d'altra parte noi sappiamo benissimo che l'economia italiana si regge molto anche, ancora rispetto, a differenza di quella americana, sugli aiuti familiari. Quindi io direi a Camilla sicuramente di tenere duro, di tenere il suo drive e di... se necessario andare a bottega, di imparare molto bene il mestiere e di vedere, di capire quali sono i fattori chiave di successo di chi questa cosa è riuscita a farla, cioè di guardarsi intorno. Lei parla addirittura di valorizzare un suo marchio, no? Quindi sì. Ecco, ma come si fa, per esempio, a imparare a fare un brand una borsa, lei parla di lavorare la pelle, eccetera, quando oggi, e parlo a Roberto D'Incau che conosce bene il mondo del lusso, sembra il mondo del lusso sembra l'unico in grado di dettare le condizioni. Come si fa, per dire, a vendere una borsa artigiana quando tutti cercano il brand consolidato? Beh, guarda, sicuramente c'è il brand consolidato e questo è un dato di fatto, però esistono, proprio tra l'altro proprio oggi avevo una riunione con un cliente che invece punta assolutamente sulla qualità artigianale delle pelli e sul... Ecco, c'è anche una grandissima attenzione, le persone sono anche un po' stufe di questa omologazione, tutto sommato, per cui c'è anche chi invece ha voglia di avere delle cose più artigianali, con un valore aggiunto, diciamo, sofisticato e con quello che gli americani chiamano value for money, no? Il valore per il denaro che spendi. Io ti posso dire, non voglio fare nomi, ma ho avuto una studentessa, perché intervengo anche ai master della moda e del lusso, mi fanno fare degli interventi, una mia studentessa che ha lanciato un suo brand, ci ha creduto e che oggi sta facendo delle cose bellissime ed è coccolata anche dei brand internazionali. Quindi guarda, io sono del parere che se uno ci crede nelle cose, alla fine, e si ha naturalmente le capacità, che ripeto, non è solo la creatività, ecco, perché questo è un po' lo sbaglio che fanno certi creativi. Penso, io sono molto creativa. Ma se poi non sai far di conto, non sai lavorare al tuo brand, esatto. non sai leggere un bilancio. Non sai fare marketing di quello che tu fai e di te stessa, non vai da nessuna parte. Ma questo vale per tutti, vale anche però per l'artigiano in modo particolare. Oggi, come ci diceva appunto anche la nostra ceramista Elvira Keller. Grazie Roberto D'Incau per essere stato con noi anche questa domenica, e buona domenica a te e a chi ci ha seguito. A te e agli ascoltatori, a presto. A presto, buona domenica. Ciao, grazie.